Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. Questa puntata del sabato di Linee d'Ombra è uno speciale che vi racconta la parte finale di ogni puntata di Linee d'Ombra, che è in onda dal lunedì al venerdì, abitualmente dalle 15 alle 16 tutti i giorni. La parte finale è dedicata a una storia seriale, è una storia che raccontiamo a puntate, settimana dopo settimana. Questo che ascoltate è quindi una sorta di riassunto delle 5 puntate della settimana solo della storia seriale, mezz'ora dedicata tutta a quella. E questa è anche purtroppo l'ultimo speciale dedicato alla storia seriale dedicata all'Ira, che ci ha raccontato Giorgio Bazzega. Giorgio Bazzega è figlio di Sergio Bazzega, un carabiniere che è stato ucciso dalle Brigate Rosse negli anni 70, che è cresciuto coltivando un'ira fortissima, che è arrivata fino ad essere un desiderio di vendetta. Ha raccontato la sua storia a Mauro Pescio, ed eccola qua. Allo stesso modo ho sentito le storie loro, delle loro sofferenze, delle sofferenze delle loro famiglie, dei loro figli. È stato molto coinvolgente. Durante il percorso che ho fatto mi sono affezionato a loro e non è stato facile ammetterlo, nemmeno a me stesso. Però è stata anche una bella sensazione, perché sai che sentirmi che mi scendeva quell'aggressività è stata una bella sensazione. E poi è stata una bella sensazione per me essere capito da loro, cioè che loro capissero questa mia rabbia, che l'accettassero, che la riconoscessero. Ed è stato l'inizio poi di un percorso, ripeto, difficile, però difficile alternato da momenti di grande empatia anche, grande amicizia poi. Mi sono scoperto a volere loro bene e mi sono sentito in colpa per questo. Mi sono sentito veramente in colpa, nei confronti di mio papà quasi. E ancora una volta a venirmi in aiuto è stata mia mamma. Sono andato da lei e le ho detto: mamma, ma sai che io mi sento in colpa, il percorso è bello e sento che sto cambiando, ma io mi sento in colpa. E sai perché? Perché inizio a volere loro bene. E lei mi ha dato la risposta che è stata risolutiva. Mi ha detto: finalmente parli come tuo padre, questa è una cosa che poteva dire lui. E le sue parole mi hanno anche fatto far pace con l'idea di volere onorare la memoria di mio papà. E mi ci sono buttato con ancora più determinazione e rapidamente ho raggiunto la consapevolezza che facendo quello che faccio, come mediatore dei conflitti, io sto portando avanti i valori di papà in un modo diverso. Ma i valori di giustizia, di eguaglianza, di giustizia sociale proprio, quelli che voleva papà, io a modo mio, con quello che sto facendo adesso, li sto portando avanti. Molto più di quando avevo come unico obiettivo la vendetta. Stavo facendo esattamente l'opposto, che è una delle cose di cui mi sono reso conto incontrando gli altri, perché quando ti incontri gli altri, quando parli da solo, anche se ti metti uno specchio, cioè sei tu più in là di quello che già sai, è difficile che vai da solo. Invece quando incontri qualcun altro può essere anche una sfumatura, una reazione, un movimento, c'è sempre qualcosa che ti arricchisce. Io incontrando questi, quando ho incontrato la loro sofferenza, ho incontrato la storia dei loro figli che si portano il fardello perché in questa società del cazzo c'è capace di prendersela con dei ragazzi che già hanno passato quello che hanno passato, perché io voglio vedere uno di quelli che se la piglia con questi crescere con un genitore in galera, che cazzo poi c'entra lui, senza sto ragazzo. E in più adesso perché sono i figli di... cioè è una roba miserabile, veramente, veramente miserabile. Hai mai incontrato i familiari di Walter Alasia? No, la mamma non c'è più. Il papà mi sa che anche lui è morto da poco. Se c'è, non sta bene. E sinceramente, cioè io lo vorrei incontrare, ma io sapere un uomo che non sta bene, magari gli vado là, gli risveglio il ricordo del figlio, gli faccio qua. Cioè, per quanto possa dirgli che io non ho rancore, che non ho cosa, soprattutto se uno ha una mentalità anche ora di una volta, che è più difficile al quale è più difficile far capire come io veda questa roba, non come io che faccio calare il perdono dall'alto. Che per il brutto del perdonare, del dire perdono è quello. Che sembra che tu voglia metterti in un posto superiore all'altro, fargli calare il perdono e dire: vedi, questo è un poveraccio, io lo perdono, perché questo è un poveraccio. Al perdonare io preferisco il ricomporre. Le ferite, le cicatrici restano, ma si ricompongono in una nuova forma. Quello che ho fatto rispetto alla figura di Walter Alasia è stato principalmente di difendere la sua fidanzata dell'epoca da un attacco molto gretto. Oggi lei è un medico con un grande curriculum, e qualche tempo fa aveva partecipato ad un bando per la direzione di una ASL in un capoluogo di provincia piuttosto grande qui in Italia. Però un suo collega, che era in lizza per lo stesso ruolo, per screditarla, ha rilasciato un'intervista per un quotidiano in cui diceva che lei aveva un passato oscuro, tirando in ballo la storia del suo fidanzamento con un brigatista che era stato l'assassino di mio padre. È come se avesse coinvolto la nostra famiglia, la memoria di mio padre, tutto a suo vantaggio. Appena l'ho saputo, ho prima contattato il giornalista e poi ho scritto a lei, dicendole che io e mia mamma non ne sapevamo niente. Io sono il figlio di papà, papà, papà. Mi fa quasi strano essere qui a scriverti, e farà sicuramente strano a te leggere quello che ho da scriverti, perché quello che ti voglio scrivere è che io e la mia famiglia ci dissociamo completamente da tutta la campagna infamatoria che ti stanno facendo. Dalla questa caccia alle streghe lo trovo indegno, mio padre non avrebbe mai voluto una cosa del genere, anzi, se hai dei figli, se hai qualcuno che sta soffrendo per sta cosa, fagli leggere la mia lettera, digli che la famiglia di quell'uomo non c'entra niente con sta porcheria. Che per quanto mi riguarda, io guardo il tuo curriculum, tu devi avere quel posto. Poi ho avuto una persona che la conosceva, tramite è riuscita a fargliela avere, e adesso forse riusciamo a incontrarci, adesso vediamo. Ho incontrato Curcio. Sì.

Oggi sono stati superati dalla storia, dalla società, dagli esseri umani. E quando penso a quelli che non hanno mai elaborato l'esperienza di quegli anni, mi viene una strana compassione, proprio per i limiti dell'essere umano. Penso che volevano cambiare tutto, fare la rivoluzione, ma non hanno saputo rivoluzionare se stessi, né hanno avuto la capacità di cambiare o di guardare fuori e nemmeno dentro di loro. E poi mi prendo la responsabilità di affermare, per quello che ho imparato, anche dai racconti degli ex brigatisti, che nelle BR c'erano sì delle teste notevoli, ma non erano tutti dei geni, anzi, tutto questo percorso è durato tutta la mia vita. Ma oggi so che è come se avessi spezzato delle catene che mi tenevano prigioniero. È stato uno dei momenti più belli della mia vita, ma non si può tenere per tutta la vita il vestito da vittima. Io me lo sono tolto e sono passato a fare il mediatore di progetti di giustizia riparativa. Aiuterò le vittime a superare i traumi legati al reato e chi ha commesso il reato ad essere responsabilizzato perché non sia recidivo. Ricomposta la mia ferita, ora cercherò di aiutare gli altri a fare lo stesso. All of my heroes sit up straight. They stare at the ground, they radiate. Me, I'm mumbling in the kitchen for the sun to pay off. Lonely as a ring on a cold coffee. Sick hound digging for bones. If it weren't for second chances, we'd all be alone. Non è successo sempre, ma ci abbiamo tenuto davvero tanto, anche parlandone con Mauro Pescio, che ha raccolto e ha seguito e ha chiacchierato con Giorgio Bazzega per tutto questo tempo e ci ha raccontato la sua storia. Abbiamo deciso che non potevamo non chiudere questa serie, questa storia seriale, che vi ricordo trovate in podcast, che è durata più di un mese, se non sentendo dal vivo e dal vero, insomma, la voce di Giorgio che è al telefono con noi. Pronto, ciao Giorgio, buongiorno. Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Sono Matteo, ma Mauro è come se fosse Matteo, parte di noi. Giustamente tu hai chiacchierato tantissimo con Mauro e lo ringraziamo perché è lui che appunto esce, raccoglie, parla e poi ci restituisce la storia. Giorgio, noi la prima cosa che vogliamo fare è veramente ringraziarti per l'enorme regalo che ci hai fatto. Credo che pochissime persone si siano aperte in questo modo, senza, devo dire, anche senza pudore, senza vergogna dei propri errori. Questo fa parte di questo percorso, Giorgio. Assolutamente sì, io questo equilibrio ritrovato, diciamo, e questa serenità nel raccontare anche la mia storia, anche le parti più dolorose, l'ho trovata dopo il percorso fatto, che mi ha fatto proprio aver fatto pace con la mia storia, mi permette di raccontarla serenamente, anche perché poi adesso sto bene. E infatti questa sarebbe stata l'altra domanda: come stai adesso? Adesso sto benissimo, sto veramente benissimo, per la prima volta in vita mia sto attraversando un periodo in cui posso dire di essere sereno, in cui sto facendo delle cose che mi danno veramente tanta soddisfazione, perché l'essere diventato un mediatore penale e riuscire a restituire un po' di quello che ho preso io durante il percorso come vittima, insomma, mi sta dando delle grosse soddisfazioni. Che cos'è esattamente un mediatore penale? Cioè, che cosa fa? Mediatore penale mette di fronte vittima di reato, autore di reato. Ovviamente sono tutte delle specifiche, per cui prima si fanno dei colloqui preliminari per vedere se sono pronti e tutto. Ma in due parole, il mediatore penale prima di tutto è un facilitatore della comunicazione. Ok. E mette di fronte chi ha subito il reato e chi ha commesso il reato, e tramite l'incontro, il poter discutere anche in un ambiente protetto e libero, perché ognuno di quelli che partecipa liberamente, se no non ha senso. Permette a chi ha commesso il reato di poter restituire il dolore subito, ed è questo lo aiuta a superare i traumi legati appunto al reato subito, alle paure, perché ogni volta che subisci un qualcosa ti rimangono dei segni, ma non solo a te, anche a chi ti sta intorno, insomma, è sempre una chiarissimo, roba così. Chiarissimo. Ma a questo proposito aiuta l'autore del reato a essere responsabilizzato del reato subito, cosa che la galera non fa, e restituisce una recidiva che al posto che essere intorno al 75% dei dati normali del carcere normale si arriva al 19%. Ah, ok, quindi diciamo sono nel 19% dei casi il reato viene reiterato, sì, una volta uscito, perché proprio la responsabilizzazione, la presa di coscienza di quello che si è fatto confrontandosi con chi ha subito quello che hai fatto è la strada migliore per far sì che non vengano più chiarissimo, chiarissimo. Senti, a questo proposito, a proposito di quello che fai tu, quanto lo hai già detto chiaramente nel racconto che hai fatto a Mauro e hai fatto a tutti noi, ma sì, quanto devi alle persone che hai incontrato sulla tua strada, persone come Manlio penso, o quelli che citi insomma durante il tuo racconto? Vabbè, io lo dico sempre che io sono sempre stato fortunato. Quante persone al mondo hanno il privilegio di avere un rapporto come io con persone come Manlio Milani, con persone illuminate, con anche i mediatori che ho avuto, l'Adolfo Ceretti, il Guido Bertagna, la Claudia Mazzuccato, e i garanti che c'erano, Gerardo Colombo, Massimo De Luca. Io ho avuto una fortuna incredibile nel trovare le persone giuste al momento giusto. Senti Giorgio, ti senti di essere guarito da quella rabbia lì? Assolutamente sì. Quando ci sono situazioni di stress forte, cioè, e succede sempre, cioè, quando sei in situazioni di stress forte, tu ti rifugi nei sentimenti che conosci meglio. Io mi sono sempre rifugiato nella rabbia. Adesso capita magari l'istinto, perché comunque cioè, ci hai vissuto una vita. Cioè, è vero che te lo levi, ma ci devi anche un po' combattere. Sì, sì, però la conosci, insomma, sai che cos'è. La conosco, so che cos'è, la so riconoscere, non mi viene più come prima, non ho più l'aggressività di prima. Giorgio, prima di salutarti, l'ultima cosa che vorrei chiederti è, oggi quando pensi a tuo papà, ci pensi in maniera diversa rispetto a come ci pensavi prima? Cioè hai di lui un ricordo e un pensiero diverso rispetto a quanto potessi avere 10-15 anni fa? Ma adesso mi sento molto più suo figlio. Cioè io adesso mi sento veramente il figlio di mio padre, perché sto portando avanti con altri mezzi rispetto a lui. Io non sono in polizia, ce l'ho facciata, ma sto portando avanti i suoi valori, i valori per cui è morto. Cioè io adesso, dopo una vita passata a sentirmi il figlio indegno di mio padre, mi sento invece il figlio di cui mio papà può essere orgoglioso. Giorgio, forse questa è la svolta anche per me. Ti ringraziamo veramente tantissimo e la tua storia per noi è stata esemplare anche rispetto a quanto il racconto di cose drammatico come la tua, ma il racconto in generale possa aiutarci ad essere delle persone migliori. Grazie davvero per come ce l'hai raccontato e per la qualità e la quantità di quello che ci hai raccontato. Ti abbraccio forte, ciao Giorgio. Grazie Matteo, grazie a voi per la sensibilità che avete dimostrato nel raccontare la mia storia, siete stati unici. A presto. Vi voglio bene. Anche noi, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ed ecco, l'avete sentito anche la sua viva voce, quella di Giorgio Bazzega, con cui abbiamo fatto una chiacchierata e che ci ha raccontato come sta, cosa prova e qual è la sua visione del futuro. Io non penso che le storie siano utili, penso che le storie siano storie. Se però da storie come queste qualcuno che le ascolta ne trae in qualche modo un insegnamento o trova una qualunque forma di utilità, noi ovviamente ne siamo felicissimi. Tutta la redazione di Linee d'Ombra, ringrazio tantissimo anche Laura Faggin che è stata con noi per questa settimana. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!